Intanto ciao a tutti, non so bene, vabbè, un po' in ritardo, poco male. Allora, niente, posso dire che per diverse volte ci siamo incontrati su delle questioni che riguardavano il giuridico, per delle questioni che riguardavano la repressione, e si aleggiava sempre attorno a questa questione dei provvedimenti amministrativi. Dall'ottobre abbiamo poi, ci siamo trovati coinvolti, ci siamo voluti coinvolgere in questa campagna lanciata dal Fredo contro il 41 bis del ragazzo dello stativo e per la sua uscita dallo stesso, e abbiamo trovato il 41 bis come emblematico elemento di provvedimento amministrativo, perché altro non è. Allora adesso, diciamo così, nella rielaborazione, ricostruzione, nel tentativo di fare, come dire, dei passi avanti su questi nostri ragionamenti, abbiamo pensato di affrontare di petto la questione dei provvedimenti restrittivi, provvedimenti amministrativi. Ci sarà una introduzione sua, poi c'è l'avvocato Ciccarone che vedo lì, perfetto, e speriamo di riuscire a attivare un collegamento con gli avvocati francesi che si sono occupati della IAT, che naturalmente è l'altro elemento scatenante di questo, diciamo, che ha fatto sì che ci fosse una particolare sollecitazione a fare questo intervento qua. Do questa indicazione: normalmente noi registriamo gli incontri e li mandiamo in streaming nel sito di Conchetta Cox18 Stream. Faremo questa cosa questa sera per la prima parte dell'incontro. Nel momento del dibattito, cioè fino a che ci sono questi incontri, questi interventi che vi ho descritto, nella parte del dibattito staccheremo lo streaming e non facciamo la registrazione. Volevo chiarire che questa cosa ha un effetto, diciamo così, può evitare che il nostro vicino di casa o la nostra compagno di scuola ci ascolti, non ci mette per nulla al sicuro da altre orecchie, che quindi non si equivochi questa interruzione come un gradino di sicurezza alle parole che qua dentro verranno dette. E basta, io penso che me la pianto subito e ti passo il microfono. Allora, sì, abbiamo deciso di organizzare questo incontro quando, tornando dalla Francia, da varie manifestazioni che ci sono state in questo periodo, diverse compagne e compagni ci hanno riferito di essere stati oggetto di una misura amministrativa che è l'interdizione amministrativa du territoire, di cui appunto poi parleremo con un'avvocata francese se ci riusciamo in collegamento diretto, se no comunque ci ha mandato dei lunghi messaggi vocali di spiegazione per rispondere a domande che le abbiamo posto, e quindi poi avremo questo collegamento o comunque la traduzione delle sue risposte. Quindi sicuramente c'è nato il desiderio di capire meglio che cosa fosse questa misura, quindi un po' quale fosse la sua storia, come venisse applicata, quali sono anche le possibilità per fare ricorso. Però diciamo che sia partendo da questa questione, sia facendo riferimento a dei pensieri che ci attraversano la mente da un po', in realtà ci siamo resi conto che la questione era più ampia e che quindi sentivamo l'esigenza di provare un po' a confrontarci sulla natura e l'uso dei dispositivi amministrativi in campo repressivo. Sicuramente è un campo repressivo che comprende tutto quello che può riguardare il frenare o interrompere manifestazioni di rabbia o dissenso, ma che in qualche misura comincia ancora prima o contemporaneamente con proprio la gestione, il controllo della popolazione e con tutta la questione del filtraggio e della gestione dell'accesso a aree o servizi. Non è un caso che molto spesso, rispetto a delle porzioni di metropoli o di territori anche più ampi, si parli di zone da difendere o da preservare. che è una questione che tra l'altro suscita delle eco anche con tutto il problema della gestione dell'immigrazione. Poi ci saranno anche, ci sarà anche un intervento a proposito della detenzione amministrativa. Quindi insomma c'era l'esigenza di provare a riflettere un po' su tutto questo e sicuramente siamo partite dalla constatazione che ne abbiamo avuto un esempio veramente clamoroso nel periodo di gestione della pandemia. E in quel caso abbiamo vissuto sulla nostra pelle il fatto che attraverso la commistione, in quel caso di addirittura la parte del diritto amministrativo e il codice della strada, venivano combinate multe sia per i comportamenti, come dire, davvero più banali, quotidiani, come uscire per una passeggiata, ma soprattutto per sanzionare e per disincentivare ogni possibilità o desiderio di incontro e di organizzazione. E quello che abbiamo notato, cercando con le avvocate e gli avvocati che ci hanno seguito anche tra di noi, di notare rispetto alle multe del periodo Covid, era come da una parte, e questo poi è un esempio che ci aiuta a capire un primo aspetto del problema della natura dei dispositivi amministrativi, è il fatto che rispetto alle lungaggini, a quelle che in teoria dovrebbero essere le procedure del diritto penale, il dispositivo amministrativo, la multa in questo caso, permette una maggiore rapidità e per esempio il fatto di contestare l'infrazione asserendo facendo riferimento per esempio a del materiale video o a dei riconoscimenti che poi di fatto era molto difficile poter andare a contestare perché questo materiale non era fruibile, mentre normalmente c'è un'apertura, una chiusura indagini, un rinvio a giudizio, si nomina la propria avvocata o il proprio avvocato e questi hanno accesso agli atti. Quindi intanto un venir meno di quelle che ancora in teoria sono le garanzie difensive del processo penale, sicuramente almeno nel caso dell'Italia anche un costo notevole dei ricorsi amministrativi. Ma al di là di queste specificità si può notare una particolarità del dispositivo amministrativo che innanzitutto è più capillare e poi viene in essere nel momento stesso in cui nemmeno un'infrazione si verifica, ma per esempio nel momento dell'accesso, e questo è un problema che abbiamo visto quando è entrato in vigore l'obbligo di esibire il Green Pass. Quando poi ci sono state le manifestazioni contro l'introduzione di questo ulteriore dispositivo, abbiamo visto nuovi dispositivi amministrativi entrare in essere, non nuovi nella loro natura ma nella loro applicazione, quindi per esempio il DASPO urbano ampiamente usato contro i manifestanti e il blocco stradale. E anche qui abbiamo notato il fatto che non venissero, o almeno non venissero solo, che è più preciso, contestati dei reati, ma ci fosse un uso veramente ampio di questi dispositivi che ancora una volta permettevano una maggiore velocità e agibilità e anche il fatto di aggirare in qualche modo quelli che magari erano diventati piccoli punti fermi della giurisprudenza. Mi riferisco per esempio al fatto che tendenzialmente, ovviamente, per manifestazione autorizzata, non autorizzata, visto una sentenza della Corte Costituzionale, alcune volte compagni e compagni erano stati assolti, bene, con le multe o con la contestazione di blocco stradale veniva meno appunto tutta la cornice del processo penale e semplicemente ci si ritrovava con multe che poi sono state da qualcuno pagate, da altri no, si sono fatti ricorsi collettivi, però insomma sicuramente un grande disincentivo. Queste misure sono andate poi a loro volta a sostanziare altre misure sempre di carattere amministrativo, quindi poliziesco, fogli di via, richieste di sorveglianza speciale, avvisi orali, ma hanno anche sostanziato il penale e questo esempio ci aiuta a arrivare un po' al cuore di quello dell'analisi, del tentativo di analisi che volevamo condividere oggi, cioè questa compenetrazione tra penale e amministrativo. perché quello che è successo, ci ricordiamo bene, c'era il caso nel 2020 di un'operazione repressiva dove esplicitamente, quindi con tutti i crismi, diciamo, del penale, dove esplicitamente scrissero sì, è un'operazione preventiva, perché dato il contesto che era quello della gestione della pandemia, del malcontento, della rabbia, della disperazione in generale serpeggiante tra le persone, agiamo preventivamente nel penale. Quindi appunto l'idea, la proposta di analisi che volevamo condividere, ovviamente c'è da discutere, nel senso è un abbozzo di interpretazione, è che sebbene ci sia indubbiamente un'espansione e un maggiore uso e soprattutto un uso più capillare nella popolazione dei dispositivi amministrativi, questi non vanno affatto a scalzare l'uso del diritto penale. Abbiamo avuto purtroppo di recente esempi di condanne inaudite in processi penali, ma si rafforzano a vicenda, si compenetrano e sostanziano l'un l'altro. E lo spostamento del diritto penale sempre più a scopo preventivo si avvicina pericolosamente a questo venire a essere quasi immediato e senza troppi cavilli, diciamo, del diritto amministrativo. E visto che poi parleremo anche di una misura che è stata posta in essere in Francia e che comunque è un contesto che abbiamo in tanti attraversato ultimamente, ci tenevo a fare un altro esempio che per me è molto significativo di compenetrazione tra penale e amministrativo, che è stato lo scioglimento dei Soulèvement de la Terre in Francia. Perché si tratta di un atto amministrativo firmato dal Presidente, dal Primo Ministro e dal Ministro dell'Interno, quindi vabbè, diciamo che leggevo qualche articolo, diceva che è stato proprio molto veloce anche nell'immediatezza del suo venire in essere, poi immagino che le riflessioni politiche invece saranno state complesse. Al contempo però, come prevede l'articolo 431-15 del codice penale francese, il fatto di partecipare al mantenimento o alla ricostituzione aperta o mascherata di un'associazione o gruppo sciolto è punito con 3 anni di carcere e 45.000 euro di ammenda. Quindi vabbè, secondo me è proprio un esempio lampante della compenetrazione. Ovviamente non si limita questa compenetrazione tra penale e amministrativo a, diciamo, questa evidenza, ma anche degli aspetti più sottili. Per esempio lo scioglimento del Soulèvement de la Terre permetterà, utilizzando tutti i dispositivi dell'antiterrorismo, un controllo capillare di chiunque si presuma, quindi anche qui in maniera, diciamo, estremamente preventiva, quasi un passo indietro al preventivo, dei controlli appunto con tutte le disponibilità a livello di intercettazioni, di perquisizioni, di controlli dell'antiterrorismo. E però c'è ancora un altro aspetto, per questo è la compenetrazione, e quindi secondo me è utile ricordare che il giorno prima dello scioglimento ci sono state 2 operazioni distinte repressive in Francia che hanno portato alla perquisizione e poi all'arresto di alcune compagne e compagni in Francia, e questo sicuramente è servito anche per l'aspetto mediatico e quindi per giustificare la necessità di un provvedimento amministrativo di questo tipo, come lo scioglimento di un movimento, poi sostanzialmente nemmeno di un, come dire, di un'identità con un riconoscimento giuridico preciso. Quindi ecco, secondo me questo è un esempio interessante di questa compenetrazione, poi non so, possiamo magari discuterne insieme. E in tutto questo un po' l'analisi che volevamo portare è che questa compenetrazione tra penale e amministrativo è, se non resa possibile, sicuramente agevolata dallo stato di eccezione, cioè da una normalizzazione dello stato di emergenza che, pur ponendosi costantemente e in diversi modi al di fuori della legge, sostanzialmente ad essa si richiama. E questo è un grossissimo problema, perché non si tratta di essere completamente al di fuori, anche se lo si è in maniera fattizia, ma il costante richiamo invece alle leggi leggi e soprattutto all'uso delle leggi in un determinato modo, quindi come dispositivi e non più col loro connotato, diciamo, generale, astratto, che sicuramente ha ugualmente permesso, come dire, le peggiori repressioni. Abbiamo parlato tante volte di diritto penale del nemico. Ma qua si fa, a mio avviso, un passo ancora oltre, nel senso che davvero questo nemico del famoso diritto penale del nemico è sempre più chiunque, e soprattutto non più o non solo, perché poi i dispositivi non vanno mai a scalare, come dire, uno non sostituisce mai completamente l'altro che viene meno, ma purtroppo in questo caso si intersecano. E non sono più solo le classiche categorie su cui sempre il diritto penale e anche quello amministrativo si sono basate, si possono fare gli esempi storici, non so, il vagabondo, il criminale abituale, il terrorista, l'anarchico, il sovversivo, ma è il tipo di gesto che si porta. Parlavamo di gesti l'altra volta, sempre in occasione di qualche incontro qui, i gesti che tu porti in un contesto qualsiasi, di vita quotidiana, di piazza, di rivolta, ti possono qualificare in questo modo. E abbiamo visto con questo spostamento sul preventivo davvero anche la manifestazione di un dissenso, il dire no a qualcosa che riguarda magari il tuo corpo, la tua vita durante la pandemia, o un gesto affermativo magari in un momento di lotta o di condivisione. E quindi ecco, questo tema dello stato di emergenza costante, dello stato di eccezione, sembra proprio la chiave attraverso cui leggere questa compenetrazione. Poi vabbè, adesso non mi dilungo troppo su questo, però abbiamo stampato una raccolta di brevi testi che secondo noi sono interessanti sul tema, che sono sul tavolo. Piove, ci dobbiamo spostare? Che faccio? Se le casse sono a posto? No, più che altro sì. Io. No, infatti, vabbè. E vabbè, tanto avevo detto che non avrei fatto un pippone, quindi forse sono già passata. No, l'ultima cosa è appunto, quindi poi su questo tema dello stato di eccezione appunto abbiamo anche del materiale, o poi magari vabbè ne parliamo insieme, capiamo che aspetti ci interessano. Però diciamo che quello a cui si faceva riferimento nell'introduzione, in quello che abbiamo vissuto negli ultimi mesi con il sostegno allo sciopero della fame di Alfredo contro il 41 bis e l'ergastolo ostativo, ancora una volta, forse nella maniera più drammatica e davvero terribile, provava ancora una volta di questa compenetrazione, tant'è che riguardando l'articolo 41 bis e tutte le sue origini, dall'articolo 90 tutto questo non sarebbe successo. No, dicevo sì, solamente che beh, anche solo riguardando l'articolo, poi appunto sembrava abbastanza eclatante il fatto che già il titolo del 41 bis fosse situazioni di emergenza. Ecco, quindi comunque una disposizione che già dall'articolo 90 doveva nascere nell'eccezionalità e in un lasso temporale ben determinato, e poi abbiamo visto come chiaramente, drammaticamente così non sia stato, e anzi come davvero abbiamo un apice di arbitrio e davvero di quell'essenza dell'amministrazione nell'apice del 41 bis. E ci interessava però provare, visto che tutti questi mesi insomma ci siamo dedicati, anche qui sono stati fatti tanti, tanti begli incontri che hanno sottolineato questo aspetto, quindi non mi ripeto, però ci tenevo a metterlo in collegamento con quello di cui parliamo oggi, cioè da questo apice di tortura, disumanità e davvero anche di della potenza dello Stato quando dice sì, il diritto è fondato sulla violenza e lo ribadisce, si vede che non è solo teoria, fino al più infimo dei dispositivi amministrativi c'è una linea che si può rintracciare e di cui forse dovremmo insieme provare a occuparci, semplicemente per avere più strumenti per capire meglio quello che ci succede attorno, appunto dall'esempio da cui siamo partiti, del fatto che si cerca di raggiungere una lotta e si viene colpiti da una misura come un'interdizione di cui nemmeno si sapeva nulla perché non deve nemmeno essere notificata, fino ad arrivare appunto al 41 bis. Dico l'ultimissima cosa, visto che ritenevamo importante fissare dei punti proprio per avere maggiore consapevolezza, però ci siamo anche detti che serve anche qualche linea di fuga per non sentirci soffocare. E quindi se è vero che siamo partiti dal fatto che alcune compagne e compagni tornando dalla Francia, ma come spesso è successo da altri paesi, con i loro racconti permettono di rendersi conto che sì, ci sono degli inasprimenti repressivi di vario tipo, dall'altra parte ci siamo anche dette che comunque la nostra voglia di viaggiare, di rompere le frontiere, di raggiungere le lotte o gli amici che più ci ispirano è sempre lì, è sempre forte, e quindi magari nella parte dopo ci piacerebbe anche, come dire, riuscire a raccontarci un po' esperienze varie e trovare anche dei modi, insomma, per sfuggire a questa compenetrazione così soffocante di penale amministrativo di cui un pochino ho provato a parlare. E niente, passo la parola. Grazie. Buonasera a tutti. La compenetrazione tra diritto penale e diritto amministrativo di cui è stato parlato in questo momento è conosciuta anche ai giuristi, non è nuova. Tra i giuristi, diciamo, in legalese si chiama doppio binario. Doppio binario perché appunto i due tipi di interventi dello Stato vanno insieme, vanno parallelamente e si completano l'un l'altro, quindi esattamente come una coppia di binari, viaggiano insieme e vanno nella stessa direzione, puntano allo stesso scopo e ognuno svolge la sua funzione in vista di quello scopo. E però quello che io volevo cercare di mettere in luce con voi questa sera è che per capire la direzione in cui va questa coppia di binari è necessario partire da molto lontano e considerare che il testo unico di leggi di pubblica sicurezza che noi abbiamo oggi, quindi le norme che lo regolano, sono con modificazioni, con interpretazioni diverse, ma quelle del Regio Decreto 773 del 1931. Quindi piena epoca fascista, come del resto il codice penale, che è del 1930, per cui il fatto che viaggino di pari passo è ben comprensibile. Gli istituti che caratterizzavano il Regio Decreto 773 del 1931, che potremmo pensare che dopo la Costituzione siano stati stravolti, ribaltati, in realtà sono sempre quelli, non sono cambiati di molto, se non in alcune definizioni, in alcuni aspetti. Uno di questi, per esempio, storicamente, è quello del foglio di via obbligatorio, che è restato per diversi anni, finché poi nel 56 non è stata fatta una legge nuova, è rimasto quello che c'era in epoca fascista nel 31, con la Corte Costituzionale che ha detto no, beh, però comunque è compatibile con la Costituzione, quindi lo lasciamo lì. Questo è stato un po' il succo. Ora, la maggior parte dei provvedimenti amministrativi che esistevano durante il fascismo e che esistono ancora oggi erano, durante il fascismo, lo strumento di controllo e repressione del dissenso politico e sono rimasti quello sostanzialmente. Il concetto di base su cui si imperniava quella legislazione e si impernia ancora quella oggi delle misure di prevenzione, che è figlia di questo testo, è quello della sicurezza pubblica. Questo è il mantra, nel senso che lo trovate da tutte le parti. C'era prima e c'è adesso. Naturalmente l'espressione è volutamente vaga, volutamente, perché lo strumento amministrativo ha come caratteristica, come è già stato detto, rispetto al diritto penale, quello di essere più versatile, di poter essere adattato più facilmente a delle situazioni diverse, e lo vedremo poi più avanti. È successo esattamente questo con il DASP urbano, che nato per una finalità è stato poi adattato ad un'altra, ma lo vedremo dopo. Comunque il concetto, ripeto, è quello della sicurezza pubblica. Il registro che sta nella normativa della prevenzione è quello che si prescinde dalla commissione di reati. Le misure di prevenzione mirano appunto a prevenirne la commissione, quindi ne prescindono. E i soggetti sono delle categorie, e la caratteristica di queste categorie è di essere selezionate non per quello che fanno, ma per quello che sono. Nel fascismo, nell'agitazione fascista, una di queste categorie classiche erano gli oziosi e i vagabondi. Questa è la dicitura. Vedremo che questa categoria è ripresentata esattamente più o meno negli stessi termini nel DASP urbano. Sono anche lì, non sono chiamati così, ma sono di fatto quelli che erano chiamati oziosi e vagabondi. Nel 2011 è stato fatto il testo attualmente in vigore delle misure di prevenzione, e vediamo che ci sono non solo dei punti di contatto, ma addirittura delle sovrapposizioni abbastanza evidenti, nel senso che i soggetti destinatari sono sostanzialmente sovrapponibili. Nel foglio di via del fascismo erano i destinatari le persone pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica o per la pubblica moralità. A queste persone poteva essere dato il foglio di via durante il fascismo. Oggi i soggetti destinatari sono, tra tanti altri, coloro che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica, morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza e la tranquillità pubblica. Questo mantra della sicurezza pubblica passa dal fascismo e si ripresenta pari pari in una legge fatta nel 2011. Quindi vedete come quello della sicurezza pubblica è un mantra che non conosce età, è sempiterno. Altra categoria del foglio di via del fascismo era chiunque fuori dal proprio comune desta sospetti con la sua condotta. E poi, se il questore trova fondati i sospetti, può farlo rimpatriare. Oggi non abbiamo per questo il foglio di via obbligatorio, ma abbiamo l'avviso orale, che è fondato sostanzialmente sulla stessa cosa. Perché anche lì la persona che si trova fuori dal proprio comune di residenza e che può essere avvisa e che rientra in quelle categorie, cioè dedito ai reati che mettono in pericolo la tranquillità, la sicurezza pubblica, sono avvisati oralmente dal questore che sussistono indizi a loro carico. Quindi ritorna anche qui il tema del sospetto. Sospetto una volta e indizi adesso. Siamo all'interno dello stesso registro. Quindi, come vedete, certi concetti attraversano il tempo e si ripresentano nello stesso modo. È un po' una sorta di eterno ritorno. A questo punto un'altra considerazione che può essere fatta è quella che lo strumento amministrativo ha dei presupposti eccezionalmente ampi, nel senso che sono delle espressioni volutamente vaghe, proprio perché lo strumento amministrativo ha il compito di superare quelle che sono le garanzie della giurisdizione tipiche del diritto penale per poter dare un ambito d'azione più ampio, e dandolo in mano soprattutto alle questure. Altro aspetto interessante che possiamo vedere diciamo diritto comparato, sarà l'ultimo che faccio, è quello che si coglie nella sorveglianza speciale che c'è oggi rispetto all'ammonimento che c'era nel regime fascista. E qui è interessante perché le espressioni utilizzate sono praticamente le stesse. Perché mentre, vabbè, il fascismo era per gli oziosi e i vagabondi, qui è per quelli che sono dediti a reati che mettono in pericolo la tranquillità o la sicurezza pubblica, ma sostanzialmente i provvedimenti che potevano essere presi erano gli stessi. Perché nell'articolo 170 del TULPS, che c'era in epoca fascista, si prescriveva sostanzialmente di darsi un congruo termine, in un congruo termine al lavoro, di fissare stabilmente la propria dimora, di farla conoscere nel termine stesso all'autorità locale di pubblica sicurezza, di non allontanarsene senza preventivo avviso e tutte le altre misure che risultino necessarie, con la prescrizione di vivere onestamente e rispettare le leggi. Non rincasare la sera più tardi di una certa ora e non uscire la mattina più presto di un'altra ora, non trattenersi abitualmente in osterie, bettole o case di prostituzione e non associarsi a persone pregiudicate. Queste erano le prescrizioni che c'erano durante il fascismo. Andiamo a vedere nel 2011 quali sono le prescrizioni date in caso di sorveglianza speciale. Le persone indiziate di vivere con il provento di reati, il tribunale prescrive di darsi entro un congruo termine alla ricerca di un lavoro, di fissare la propria dimora, di farla conoscere nel termine stesso all'autorità di pubblica sicurezza, di non allontanarsi senza preventivo avviso all'autorità medesima, vivere onestamente e rispettare le leggi, non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all'autorità locale, non associarsi abitualmente a persone che hanno subito condanni o che sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, non accedere agli esercizi pubblici che ai locali di pubblico trattenimento, anche in determinate fasce orarie, rincasare la sera non più tardi di una certa ora e non uscire la mattina più presto di una data ora, poi vediamo, non detenere e portare armi, ovviamente, e tutte le altre prescrizioni e esigenze di difesa sociale. Sostanzialmente la stessa cosa, le stesse parole. E in tutte e due le legislazioni, fascista e attuale, il divieto di partecipare a riunioni pubbliche. Quindi questo è esattamente quello, cercare di impedire di partecipare alle mobilitazioni. Quindi vediamo come, diciamo, non è che ci sia niente di nuovo, se non alcune definizioni che erano considerate chiaramente datate, come quella degli oziosi e dei vagabondi, ma definiti in un altro modo. Vi è da dire che la giurisprudenza su alcuni aspetti ha un po' inciso, nel senso che ci sono state delle sentenze anche della Corte Costituzionale in cui si è detto sì, ma vivere onestamente cosa vuol dire? Quindi prescrizioni troppo generiche no, però sostanzialmente questo non incide sul fatto che l'impianto di base su cui poggiano le attuali misure di prevenzione è lo stesso su cui poggiavano le misure di prevenzione durante l'epoca fascista. Vi è largo uso di queste misure nei confronti di chi fa attività politica, alcune persone qui presenti ben lo sanno, insomma. Quindi sostanzialmente questa legislazione si affianca a quella penale in quelle di occupazioni, manifestazioni non autorizzate, presidi, blocchi stradali. Sono tutti reati che sono perseguiti a livello penale, ma prima che il reato venga accertato a livello penale e che quindi il diritto penale ponga in essere i propri effetti, passa un certo tempo. Il diritto amministrativo invece i propri effetti li pone in essere subito, nel momento stesso in cui ti notificano il provvedimento, quello ha effetto. E mentre nel diritto penale è l'autorità che rincorre te, nel diritto penale sei tu che devi rincorrere l'autorità, perché quel provvedimento ha effetto, sei tu che lo devi impugnare, e se lo vuoi impugnare lo puoi impugnare gerarchicamente al prefetto, che è come non farla l'impugnazione, perché sostanzialmente è il superiore del questore, quindi il questore è il capo del prefetto di fatto, per cui sostanzialmente l'unico modo per impugnarlo veramente è andare al TAR. Andare al TAR significa pagare 650 euro solo di gabella, di soldi da dare allo Stato per poter fare il ricorso, più sostenere i costi legali di un ricorso al TAR che non sono esattamente irrisori, perché per l'avvocato è molto impegnativo un ricorso al TAR a livello proprio di lavoro, insomma, non è uno scherzo. E quindi chiaramente disincentivo al all'impugnazione. Salvo il fatto che, questo va detto, che l'inosservanza dei provvedimenti amministrativi poi ricade nel penale, per cui sostanzialmente anche dal punto di vista dell'autorità si ricade nell'inefficienza che l'autorità assegna allo strumento penale per non essere immediatamente attivo. Quindi se io violo il foglio di via commetto un reato, con tutto ciò che ne consegue, cioè si deve fare il processo, eccetera, eccetera. Ecco, questa è un po' una antinomia che possiamo rilevare. Ora io volevo, passando a parlare del DASPO, volevo evidenziare come la categoria, vi anticipavo, degli oziosi e dei vagabondi, tipica dell'illegalizzazione fascista, si ripresenta nel DASPO urbano. Perché praticamente chi è il destinatario del DASPO urbano? Ora, è stato utilizzato nella legislazione emergenziale durante il periodo della pandemia, quelli che limitano la libera accessibilità e la fruizione di specifiche aree, quando si andava in Duomo a fare le manifestazioni, cioè no, tu non preavvisi, occupi la piazza, quindi impedisci a quelli che vogliono andare alla Rinascente a comprare i regali di andarci. Okay. Però poi se andiamo a vedere gli altri casi, vediamo che il DASPO urbano può essere dato a chi è colto in luogo pubblico in stato di manifesta ubriachezza, o chi in luogo pubblico aperto al pubblico commette atti contrari alla pubblica decenza, o chi esercita il commercio su aree pubbliche senza le prescritte autorizzazioni, quello che mette la bancarella con cianfrusaglie e cose di questo tipo, i libri usati, eccetera, eccetera. Chiunque esercita e pratica l'accattonaggio molesto, cioè quello che simula delle deformazioni, delle malattie per suscitare l'altrui pietà, così è definito nella norma. E quindi sostanzialmente con altre parole, con altre espressioni più adatte allo stato attuale, si, diciamo, ritorna alle categorie che durante il fascismo venivano definiti come oziosi e vagabondi. Quindi diciamo che queste categorie ritornano in auge. È evidente che qui però, qual è il problema? Noi vediamo chiaramente che qui in teoria la questione politica non c'entra, in teoria. Il preambolo del primo articolo dice che ai fini del presente decreto si intende per sicurezza urbana il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione urbanistica, sociale, culturale e recupero delle aree, dei siti degradati, eliminazione di fattori di marginalità, esclusione sociale, eccetera, eccetera. In teoria non c'entra l'attività politica. E poi però cosa è successo? Che durante le manifestazioni No Green Pass è stato questo lo strumento utilizzato contro coloro che vi prendevano parte. Il DASPO urbano si articola in due fasi, cioè prima c'è il sindaco che ti fa la multa e ti dice te ne devi andare per 48 ore, poi se tu ritorni, non rispetti, arriva il questore che ti inibisce di starci per un anno in determinate aree, che sono sostanzialmente tutte, perché prima il decreto Minniti ha fatto una serie di aree, poi Salvini le ha ampliate e poi l'ultima è stata quella della Morgese, che ho scoperto parlando qui l'altro giorno, che viene comunemente conosciuto come DASPO Willy. Io non lo conoscevo con questa dicitura, ma diciamo è stato l'ampliamento della Morgese, l'ha ampliato allo spaccio, a quelli che spacciano droga, ma anche solo per denunce, badate bene, non che sono stati condannati, basta essere stati denunciati, o per risse in locali pubblici, eccetera, eccetera. Quindi è stato ampliato così, ma è stato dato poi nelle manifestazioni No Green Pass, dicendo che queste limitavano la libera fruizione degli spazi. Quindi è stato utilizzato come uno strumento prettamente politico per impedire la partecipazione e le mobilitazioni a persone che tra l'altro non erano molto avvezze a volte a questo tipo di manifestazioni, quindi che si sono trovate anche molto spiazzate. Tutto questo sostanzialmente in cosa si inserisce? Si inserisce all'interno, è stato detto, della legislazione emergenziale. La legislazione emergenziale trova una delle più insidiose forme nella legislazione in deroga, cioè che la legislazione in deroga è stato quello che è stato fatto durante la pandemia, quando è stato programmato lo stato d'emergenza. Proprio la norma sullo stato d'emergenza dice che vengono emanate norme in deroga ad ogni altra disposizione. Quindi chiaramente è dichiaratamente qualcosa che esce dal seminato e dove va? Dove va? È stato sperimentato che durante la pandemia che sono stati tranquillamente limitati dei diritti previsti nella Costituzione a fronte di situazioni che tali limitazioni non prevedevano. Per esempio, non si potevano fare i cortei, ma il diritto di riunione dell'articolo 17 della Costituzione non prevede delle limitazioni, non sta scritto da nessuno, mentre il diritto di circolazione c'è scritto nella Costituzione che può essere limitato per ragioni di igiene, di ordine pubblico, mentre il diritto di riunione, sta limitazione non c'è, per cui non può essere limitato, però i cortei non li potevi fare. Chiaramente il non uscire di casa è chiaramente una limitazione della libertà personale. Pensate a quello che sta ai domiciliari, che ha una pena detentiva e si fa i domiciliari, quello è presofferto, gli conta come se fosse stato in carcere, perché è una limitazione della libertà personale. La Costituzione prevede che per limitare la libertà personale oltre alla legge ci vuole l'atto motivato dell'autorità giudiziaria. E ovviamente il divieto di uscire di casa, oltre a essere un atto amministrativo, perché è fatto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, quindi non con legge, prima violazione, la libertà personale può essere limitata solo per legge, e niente atto motivato dell'autorità giudiziaria, seconda violazione. Tutto ciò è stato fatto nella più totale accondiscendenza della popolazione, sostanzialmente. Questo cosa ha dimostrato? Ha dimostrato che con la legislazione d'urgenza si sono superati dei limiti della Costituzione tranquillamente, senza che nessuno dicesse niente. Questo perché è importante? Perché in teoria la Costituzione dovrebbe essere quello che costituisce il limite a quello che l'autorità può fare, cioè rapporto tra diritti e autorità, i diritti dove arrivano e dove l'autorità interviene. Ecco, il limite sarebbe quello della Costituzione, che traccia la via su quello che l'autorità può fare. Se viene superata con questa disinvoltura, questo significa che quella roba là è carta straccia, sostanzialmente. Tanto c'è l'emergenza, me ne fotto di quello che c'è scritto lì, mi invento un'emergenza e faccio la stessa cosa, la supero. Quindi sostanzialmente il limite all'autorità, all'azione dell'autorità cade, è carta straccia sostanzialmente, e quindi non c'è più sostanzialmente. I limiti, i diritti diventano una concessione, ed è esattamente, per ritornare al discorso che facevamo all'inizio, la differenza su quello che in teoria dovrebbe essere lo Stato democratico rispetto alla legislazione fascista. Lì il diritto era concessione, qui dovrebbe essere limite all'autorità. Non è così. La legislazione d'emergenza traccia una linea su tutto questo e ti dice: no, guarda che non è così. Se c'è la situazione che mi fa dire che questi diritti non esistono, io l'applico tranquillamente e ci passo sopra. Il 41 bis sostanzialmente ha riproposto lo stesso schema, perché anche lì sono sostanzialmente violazioni di regole di trattamento, che sarebbero quelle minime previste. Lo dicono tutti che è incostituzionale, nessuno ne dubita, ma poi nessuno fa il passo successivo, cioè di dichiararlo come tale. Adesso vedremo, c'è una Corte europea in ballo, se ci saranno novità. Comunque, ecco, quello che vi volevo dire è un po' evidenziare come tutte queste leggi amministrative trovano la loro origine nell'epoca fascista, e sì, le ritroviamo qui con altre parole, con altri schemi diciamo di ragionamento, ma sostanzialmente a livello concreto uguali. Ok, donc petit vocal, je vais sûrement vous le faire en plusieurs fois, donc déjà désolé de pas pouvoir vous avoir en vrai, enfin en tout cas en visio. Alors plusieurs choses, les IAT, donc interdiction administrative du territoire, c'est des mesures qui sont prises par le ministre de l'Intérieur français quand les personnes représentent une menace pour les Européens, une menace réelle, sérieuse, actuelle à l'ordre public. Beh, si sente, no? Se facciamo così non c'è bisogno del jack? Ah, vabbè, se c'è possiamo già metterlo, dai, allora. Ma ci arriva? Me lo passi? Non ci arriva? No, allora va bene così, dai, non ti preoccupare. Vabbè, sì, l'avvocato ci salutava tutti e per il momento appunto abbiamo questo intervento registrato. Quindi ci iniziava a parlare del dispositivo amministrativo chiamato appunto IAT, che sarebbe Interdiction Administrative du Territoire, e quindi appunto ci voleva parlare di questo, no? Sì, aveva già cominciato a dire che sono delle misure che sono prese dal ministro dell'interno francese, e quando le persone rappresentano una minaccia, e nel caso degli europei deve essere una minaccia reale, seria e attuale all'ordine repubblicano. Vai. Une menace réelle, sérieuse, actuelle à l'ordre public. C'est une mesure qui a été imaginée en 2014. Il y avait déjà eu une première tentative de mettre ça en œuvre plus tôt, qui avait été censurée par notre Conseil constitutionnel. Allora, c'era già stato un primo tentativo di mettere in piedi questo provvedimento, che era stato però rigettato dal Consiglio costituzionale. Et en 2014, c'était dans le cadre d'une loi antiterroriste que des débats à l'Assemblée nationale ont finalement permis à cette loi d'aboutir. C'est donc... Quindi nel 2014, finalmente, nel quadro antiterrorista, sì, della legge antiterrorista, finalmente si è riuscita a far passare, è stato approvato questo provvedimento. C'est donc, c'était circonscrit, c'était vraiment pour les personnes qui sont susceptibles de troubler gravement l'ordre public. Et qu'est-ce que ça voulait dire? Enfin, en tout cas, dans les débats, c'était des personnes qui étaient susceptibles de commettre des actes de terrorisme sur le territoire français. Ça s'adressait en fait à... Quindi era molto circoscritto, era veramente soltanto per le persone che potevano commettere un atto terroristico in Francia. Aux personnes qui se trouvaient sur zone, comme on dit, c'est-à-dire avec Daesh en fait, et qui auraient pu rentrer sur le territoire français pour commettre des actes de terrorisme. Et donc l'idée. Allora, quindi in particolare era destinato ai membri di Daesh che sarebbero potuti entrare sul territorio francese per commettere un atto terroristico. Era stato pensato in questo quadro molto particolare e specifico. Et donc l'idée c'était de les empêcher de venir pour éviter ensuite de gérer ce qui a pu se passer en 2015 par exemple de manière un petit peu préventive, mais sur un cadre vraiment assez précis. Quindi l'idea era di impedirli di accedere al territorio francese per impedire che avvenissero degli attentati come poi sono avvenuti nel 2015. Si trattava di prevenzione, però il quadro era molto specifico e limitato. Ensuite, et sûrement le plus intéressant, le plus important, c'est qu'est-ce que c'est? Alors, une interdiction administrative du territoire français, il y a plusieurs critères légaux, déjà, qui sont que la personne d'abord soit étrangère, qu'elle ne soit pas française. Donc, une personne. Allora, prima di tutto, allora, di cosa si tratta? Il primo criterio legale è che la persona sia straniera, cioè questo provvedimento non può essere destinato a un francese. Donc une personne de nationalité française ne peut pas faire l'objet d'une telle mesure normalement. On a vu que le ministre de l'Intérieur s'est déjà planté récemment et a mis une IAT à un ressortissant français, à une personne qui était française, qui avait un nom un peu italien et qui vivait en Italie, ce qui montre bien à quel point les informations du ministre sont quand même pas ouf, parce que c'est le premier critère de base, c'est que... Allora, abbiamo già visto che... il ministro dell'interno francese si è sbagliato e ha dato questa interdizione a un ragazzo francese che però aveva un nome italiano e che viveva in Italia. Quindi questo ci fa capire a che punto le informazioni del ministro francese erano davvero limitate. Che ce soit une personne étrangère. Elle peut être européenne, comme je vous le disais tout à l'heure, ou encore extra-européenne, en tout cas. Pas française, c'est un critère hyper important. Il y a un autre critère, c'est qu'il faut que la personne ne soit pas encore sur le territoire français, qu'elle soit pas sur le territoire au moment où la mesure est prise par le ministre. Sinon, il y a d'autres choses, en fait. Allora, quindi può essere europea questa persona chiaramente, e c'è un altro criterio molto importante. Questo criterio è che la persona nel momento in cui viene raggiunta da questa misura non deve trovarsi ancora sul territorio francese, quindi non è possibile dare questo provvedimento a qualcuno che è già sul territorio francese. Cioè emanarlo prima. En fait, cette interdiction administrative du territoire, c'est un peu le miroir de des arrêtés d'expulsion qui, elles, s'adressent aux personnes qui sont sur le territoire français et qui seraient susceptibles, là aussi, de représenter une grave menace à l'ordre public et qui, à ce moment-là, peuvent faire l'objet un peu de la même manière par le ministre de l'Intérieur ou ses services. Encore là. Sì, altrimenti c'è un ordine di espulsione che è un po' il provvedimento specchio, diciamo, dell'altro. Cioè, sempre il ministro dell'Interno può decidere questo provvedimento, che però è dato a qualcuno che già si trova sul territorio francese, che quindi viene espulso dal territorio francese. Qualcuno che si trova sul territorio francese per qualsiasi motivo, non con una residenza, con un lavoro, è anche io se vado 2 giorni in Francia, esatto, da quello, su quel, sì, momento, in quel momento sul territorio francese. Chiaramente suppongo che tu debba dimostrarlo, perché altrimenti... Questo magari glielo possiamo chiedere, però immagino che se loro non sanno che tu sei già sul territorio francese non hai modo di dimostrarlo, forse... Se mi ferma la polizia, sì, in Francia... Possono darti questa cosa? Possono darmi gli appigli. Beh, se è stato emanato... Esatto. La data deve essere data in questo permesso della polizia. Se no c'è questa cosa dell'espulsione. Esatto. Alternativa all'espulsione, che però passa sempre da un decreto ministeriale, se si capisce bene, no? Ou ses services, d'une expulsion. Donc la personne à ce moment-là est placée en centre de rétention, puis ensuite renvoyée dans son pays par avion. Donc ça, c'est les deux critères les plus importants, un peu extra le cœur de la mesure, à savoir donc les personnes qui pourraient représenter une menace, un danger pour la France, pour faire vite. Et voilà, enfin ça... Sì, dice nel caso di questo ordine di espulsione, cioè quando qualcuno è già entrato sul territorio francese, poi vengono messi in centro di retenzione e espulse verso il loro paese di origine. E dice che questi sono un po' i punti centrali, insomma, di questo provvedimento. E voilà, enfin ça c'est les critères légaux. Qui paraissent importants. Ensuite, sur ce que c'est, donc c'est empêcher la personne de rentrer sur le territoire et, en fait, ce qui se passe pas pour les Européens, puisqu'il n'y a pas vraiment de frontières. Donc, en tout cas, enfin, ça s'est vu sur les notaves. Allora, quindi si tratta di impedire a una persona di entrare sul territorio francese. Poi sta dicendo, nel caso degli europei, la questione è un po' particolare, nel senso che non ci sono, dice lei, veramente delle frontiere, di conseguenza si tratta piuttosto diciamo di controlli mirati. Mais dans les cas qu'on a eu avant, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il y a une personne qui va se faire contrôler. Souvent, c'est des contrôles ciblés. Donc, en fait, on contrôle cette personne parce qu'on veut lui dire qu'elle n'a pas le droit d'être ici. Et donc, à l'occasion d'un contrôle de police. Sì, quindi per esempio fa l'esempio proprio del caso Notav e quindi dice si tratta di controlli che sono mirati, cioè si cerca una persona o più persone in particolare per poterle fermare alla frontiera e dire loro che non hanno il diritto di entrare in Francia. Quindi questo avviene durante un controllo di polizia. D'un contrôle de police, on lui explique qu'elle fait l'objet d'une mesure dont elle n'était pas informée et qu'on lui notifie, donc on lui dit voilà madame, monsieur, vous avez cette interdiction administrative du territoire qui vous est appliquée, vous n'étiez pas au courant, c'est normal parce qu'on ne l'explique pas aux gens avant qu'ils viennent, c'est une mesure secrète un petit peu. Questo è un punto importante, ci dice che la misura è segreta, nel senso la scopriamo una volta che... Sì, ma viene notificata in Francia, quindi nel senso una volta che cerchiamo di mettere piede sul territorio francese, solo in quel caso ci viene comunicata, notificata. No, vabbè, scusate l'interruzione, era solo anche per interagire. Dicevo che effettivamente è interessante perché richiama quello che dicevamo prima, magari a livello un pochino più teorico, quindi mi interessava fare questo collegamento che certo magari è messa prima, però viene in essere nel momento in cui tu sei lì, altrimenti prima non lo sai la differenza rispetto all'impostazione in teoria del diritto penale. E quando ne avevamo un po' parlato ci ricordava appunto gli esempi che abbiamo fatto prima rispetto alla pandemia, no? Provi a accedere a un luogo, a un servizio e ti viene detto no, perché in quel momento, nel momento in cui tu fisicamente ti presenti, o come il DASPO, cioè anche qualcosa che richiama molto il corpo, no? Quando tu fisicamente, corporalmente sei lì, allora c'è un'interdizione. Quindi sì, mi sembrava un punto importante. Anche perché non ha esistenza pubblica, altrimenti, no, quello che ho capito io, altrimenti non esiste se non nel momento in cui si prova a accedere. Scusate, io dico solo una roba di un minuto, visto che, vabbè, io sono una delle persone a cui è stata notificata questa cosa. In realtà il nostro IAT è stato emesso quando noi eravamo già in Francia, nel senso che noi siamo entrati nella notte tra l'1 e il 2 giugno, è stato emesso il 2. Ma questa noi gliel'abbiamo detto alla polizia, ma non era dimostrabile, per cui questa cosa si dimostrerà in sede di tribunale nel ricorso. Noi intanto siamo stati messi nel CRAI ed espulsi, poi dopo vediamo, per cui anche questa cosa è la stessa cosa che stavano dicendo loro. Basta, solo esempio concreto. No, ma è molto interessante perché dimostra esattamente questa cosa, no? E il fatto che non si rispettino neanche i procedimenti di base del diritto, cioè prima si butta fuori, poi si va a controllare se è corretta o no la decisione. Continuiamo. E a ce moment-là, les autorités françaises, la police en gros, amènent la personne dans ce qu'on appelle une retenue administrative, c'est une sorte de garde à vue. Donc dans les locaux d'un commissariat. Allora, in questo caso la persona finisce in garda a vue, è quella che viene chiamata retenue administrative. Cosa c'è? Ai. Cioè viene la persona viene ritenuta nei locali della polizia. Française, la police en gros, amène la personne dans ce qu'on appelle une retenue administrative. C'est une sorte de garde à vue, donc dans les locaux d'un commissariat. La seule différence avec une garde à vue, c'est que la personne peut utiliser son téléphone portable. Et à ce moment-là, il y a un interprète normalement qui lui explique la mesure et qui lui fait ce qu'on appelle une audition administrative, donc qui lui pose des questions sur où est-ce qu'elle habite, qu'est-ce qu'elle fait en France, depuis combien de temps elle est là, quelles sont, je sais pas, ses activités. Allora, la differenza rispetto a una garde à vue è che è possibile avere ancora il proprio telefono e si ha diritto ad avere un interprete che spiega la situazione nella quale ci si trova, ma fa anche alcune domande, cioè chiede per quale ragione ci si trova in Francia, che cosa si sta facendo, quando si è arrivati, eccetera eccetera. Je sais pas, ses activités, etc. Et à la fin, on lui pose la question, est-ce que vous êtes d'accord pour rentrer ou pas? E la domanda finale è siete d'accordo, sei d'accordo a entrare sul territorio francese? Cosa dice? Cosa ha detto l'avvocato? Ha detto pour rentrer, quindi... Però continua adesso. Perché è una formalizzazione giuridica. Per tornare indietro. Sei d'accordo a entrare nel territorio francese? Tu dici sì, a quel punto dici ok. Io ho un dubbio. Ascoltiamo magari il seguito, perché non so se. In realtà noi in questo interrogatorio ce l'hanno fatta. L'ultima domanda era: siete disposti? Cioè, se noi ti diciamo di andare via, tu ci vai. Ok. Poi gli ho detto sì, non ci hanno creduto. Però okay. La domanda è quella. Ma siamo messi, ragazzi? Non so. Non so, restiamo qua, proviamo un po' di... Come siete messi là? Ma no, rimaniamo qua. Cioè. Ah, sì, basta. Dai, andiamo avanti. Esatto. È uno stato di emergenza. À l'issue de cette mesure de garde à vue, enfin je vais dire ça pour faire simple, c'est une fois de plus encore, on appelle ça une retenue administrative, mais c'est à peu près pareil. À la fin de cette mesure, la personne est très souvent, en tout cas potentiellement, envoyée en centre de rétention. Sì, quindi alla fine di questa specie di garde à vue, che è questa retenue administrative, la persona spesso è inviata in centro di retenzione, quello che succede nella maggior parte dei casi. Ce qui peut être intéressant, c'est que c'est pas la même personne qui prend cette décision de placer la personne en centre de rétention, c'est cette fois le préfet. Donc c'est des autorités qui sont dans chaque région, dans chaque département. Il y a un préfet qui s'occupe de plein de choses, et notamment des étrangers pour les mettre en centre de rétention. Questa decisione quindi spetta a un prefetto. È lui che decide se mettere qualcuno in centro di retenzione. E en vue de les expulser dans leur pays d'origine. Les centres de rétention en France, je crois qu'en Italie, c'est à peu près pareil. C'est une catastrophe absolue. C'est vraiment horrible. Et en fait, il y a des règles qui sont malheureusement bien trop souples, hein, où il y a un juge spécial qu'on appelle un juge des libertés et de la détention qui... Allora, quindi diceva che si va in centro di retenzione poi, per essere poi espulsi, e che la situazione, come immagina, sia anche in Italia è catastrofica, che le regole sono fin troppo elastiche, e che chi prende la decisione è il prefetto, ma quello l'avevamo già detto. Vabbè. Detenzione. Où il y a un juge spécial qu'on appelle un juge des libertés et de la détention qui a pour mission de vérifier la régularité de la procédure. Quindi c'è un giudice di libertà che deve lui verificare effettivamente che questi criteri sussistano, è lui che prende questa decisione finale. Donc je disais, des juges sont supposés vérifier un peu la régularité de tout ça, et jusqu'à maintenant il y a des décisions assez contrasté en France sur la question des Européens qui se retrouvent en centre de rétention, avec des JLD qui ont pété un câble en disant que c'était absolument pas normal, que c'était pas fait pour ça, ce qui pose d'autres... Allora, le decisioni dei giudici sono molto contrastate e anche contraddittorie, nel senso che ci sono proprio dei giudici che sono diventati pazzi dicendo che non ha nessun senso nel caso degli europei ricorrere a questa misura, quindi al centro di retenzione. D'autres questions politiques, parce que pour les Noirs et les Arabes, il n'y a pas de problème. Mais bon, en tout cas, pour les interdictions administratives du territoire, c'est un peu les réactions qu'on a eues, sachant qu'il y a aussi eu un ressortissant suisse qui, lui, a été expulsé sans aucun problème. Allora, questo pone ovviamente degli altri problemi politici, perché c'è chi dice, ma cosa, allora nel caso di neri e di arabi va benissimo, ma l'unico problema sono gli europei? E c'è anche stato un caso di uno svizzero che è stato espulso molto facilmente, adesso vediamo come. Aucun problème, le juge a estimé, ressortissant suisse qui lui a été expulsé sans aucun problème, le juge a estimé que c'était parfaitement normal qu'il fasse l'objet de cette mesure, et que donc faut être assez prudent parce qu'on a très peu de cas pour le moment, et on ne sait pas encore vraiment comment les juges qui officient dans ces endroits, dans les CRA, dans les centres de rétention administrative, vont réagir par rapport à tout ça, et est-ce qu'ils vont libérer à chaque fois, ou est-ce qu'ils vont dire bah non, pas de problème, et à... Quindi, se, diciamo, ci sono dei giudici che trovano che sia un problema nel caso degli europei, dei giudici che invece non hanno problemi. Lei faceva un esempio di uno svizzero, ma ce ne sono stati molti altri. Sì. E, cosa? Che non sono dei... Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. E che diceva, insomma, che è stato espulso senza passare, ho capito che diceva questo, dal centro di retenzione, sebbene potesse essere destinato a questo centro. Non ho capito se diceva questo. Sì, non, pas de problème, et attendre, à ce moment-là, les gens attendent dans le centre de rétention que la préfecture leur trouve un vol pour regagner leur pays d'origine. Donc c'est ça, en fait, qui est hyper problématique sur ces mesures. L'autre élément qui me paraît important, c'est que c'est des mesures qui sont normalement prises à vie, qui sont réexaminées tous les 5 ans, enfin bon, il y a des... Esatto, che sono misure che vengono prese a vita e che devono essere riconfermate ogni 5 anni, ma possono anche, immagino volesse dire, essere riconfermate di maniera automatica per sempre. Il y a des mécanismes de réexamen pour que éventuellement à un moment on se dise ok, bah en fait c'est plus la peine, donc on abroge, on enlève cette mesure pour la personne, mais sinon officiellement ce sont des mesures qui sont supposées être prises pour toute la vie de la personne. Quindi sono delle misure che ogni 5 anni dovrebbero essere riesaminate, ma effettivamente potrebbero non essere mai abrogate, perché la decisione deve andare nel senso di abrogarle, se no rimangono in piedi. Quindi se uno dice... Esatto, questo è il discorso. Ce qu'on voit là récemment, c'est que les premières IAT qui ont été prises envers les militants européens, c'était des mesures définitives qui pour l'instant... Enfin, en tout cas, ouais, elles étaient définitives. Et en fait, ils ont un petit peu adapté leur stratégie du côté du ministère, puisque... Allora, quindi sono, sì, per il momento le misure che sono state prese nei confronti degli europei sono state delle misure definitive. E dice che stanno un po' cercando di adattare la strategia, capiamo. A seconda del ministro dell'interno. Puisque maintenant, ce sont des mesures qui sont circonscrites à la manif que les Italiens, notamment, sont susceptibles d'aller faire en France. Donc, en gros, ça prend le week-end, quelques jours avant, quelques jours après. Et c'est... Allora, per il momento, sono misure che sono circoscritte quindi alle manifestazioni che gli italiani potrebbero andare a fare in Francia. Quindi, si tratta di 2 giorni prima e 2 giorni dopo la manifestazione. Et c'est tout. Et ce qui nous empêche de réagir en tant qu'avocat, parce qu'en fait, il n'y a plus d'urgence une fois que la mesure n'existe plus. Quand elle est prévue, par exemple, du 1 au 5, si nous, on veut faire un recours le 6, on ne peut plus faire de recours en urgence puisque la personne peut revenir en France comme elle veut le 6. Allora, è molto difficile per gli avvocati intervenire su queste interdizioni brevi, perché almeno di intervenire d'urgenza, perché se si vuole fare un ricorso d'urgenza e l'interdizione è dall'1 al 5, il 6 già non si può più fare questo ricorso d'urgenza. Quindi è difficile intervenire su questo. Du coup, j'ai un peu anticipé sur la question des recours. C'est évidemment le plus important pour vous, je pense. La question des recours, c'est... Donc, au début, sur les interdictions définitives du territoire, donc les IAT normales, on a un délai de 2 mois pour introduire un recours au tribunal administratif. Allora, quindi adesso parliamo della questione più specifica del ricorso. E, per quel che riguarda l'interdizione normale, diciamo, è possibile fare questo ricorso nei 2 mesi successivi. Alla notifica, sì. Administratif de Paris, il n'y a que Paris qui centralise toute la France, parce que c'est le ministre de l'Intérieur qui gère ce genre de truc. Et donc, on doit... E quindi è Parigi che centralizza tutto perché è il ministro dell'interno che se ne occupa, dunque il ricorso deve essere fatto a Parigi. On doit faire un recours par voie d'avocat, parce que c'est hyper compliqué, auprès de ce tribunal. Le problème, c'est que les... Allora, bisogna assolutamente farlo attraverso gli avvocati perché è davvero molto complicato e a questo tribunale specifico di Parigi. Al tribunale di Parigi, non ci... Et que les délais pour qu'on ait une réponse de ce tribunal sont extrêmement longs, et que c'est entre 1,5 et 2 ans en ce moment. Il tribunale in questo momento mette da 1,5 a 2 per dare una risposta a questi ricorsi, quindi dei tempi molto molto lunghi in questo momento. Pour obtenir une audience et donc une réponse par rapport aux arguments qu'on soulève qui en général, enfin en tout cas jusqu'à maintenant, prospèrent, c'est-à-dire qu'on gagne. On a la possibilité de faire des recours en urgence C'est ce qu'on a fait et c'est pour ça qu'on a quelques décisions récentes où en fait ce qui se passe c'est que pour l'instant à chaque fois qu'on allait avoir une audience une heure ou deux avant, avant l'audience en question en urgence du coup le ministre abrogeait l'arrêté, c'est-à-dire. Allora, ci è capitato invece di fare dei ricorsi, di riuscire a fare questi ricorsi in urgenza e in questo caso in effetti quello che è successo è che il ministro ha abrogato l'interdizione. Dire che faisait disparaître la décision en disant j'ai réexaminé la situation de la personne et en fait elle ne mérite plus d'avoir cette décision donc je l'enlève. Allora, quindi la faceva veramente sparire, nel senso che diceva ho riesaminato la situazione di questa persona e mi sono reso conto che non meritava questa interdizione. Questo è quello che è successo nella maggior parte dei casi in cui sono riusciti a ricorrere, nella totalità dei casi, lei dice. Sì. Ce qui nous montre bien que c'est des mesures qui sont prises uniquement pour réprimer les militants en fait et les empêcher de venir à des manifestations, ce qui pour l'instant est un mécanisme qui fonctionne très bien et en fait ils ont trouvé. Allora, quindi è molto chiaro, questo dimostra chiaramente che si tratta soltanto di una misura repressiva per impedire ai militanti di riuscire a raggiungere le manifestazioni e si tratta di una misura che per il momento ha funzionato molto bene in effetti. Trouver une parade à nos recours en urgence, comme je le disais tout à l'heure, en mettant des interdictions administratives du territoire temporaires, donc qui sont circonscrites à une manifestation et qui nous empêchent, si on ne réagit pas quand les personnes la reçoivent immédiatement, en faisant un recours en urgence tout de suite, ça ne nous permet plus de faire de recours en urgence puisque. Sì, come diceva, insomma, la tecnica che hanno trovato è questa di fare di dare delle interdizioni molto brevi, temporanee, che non permettono di fare ricorso, a meno che non si faccia un ricorso d'urgenza. Quindi lei dice quello che funziona è intervenire immediatamente fare questo ricorso d'urgenza, chiaramente nella difficoltà di trovare subito un avvocato parigino, perché è questo che si dovrebbe fare. Come la misura non è più effettiva ensuite, il n'y a più di urgenza a andare al tribunale. Cioè l'avvocato dovrebbe avere dei contatti su Parigi per poter fare un ricorso di urgenza con uno studio in qualche maniera amico, ecco. Diciamo che è abbastanza normale, nel senso che quando sono atti del ministro. Anche qua è a Roma il TAR. Sì, anche qua in un disco rispondi il ministro per andare solo al Tribunale di Sorveglianza di Roma. Certo. Beh, diciamo che da questo punto di vista noi compagni siamo un po' dei privilegiati in questo senso, nel senso che solitamente poi anche per date di questo genere ci sono dei legal team, quindi anche delle cose, delle strutture più grandi, anche in Italia se ci pensiamo bene o male i contatti fra avvocati non mancano, se anche io conoscessi soltanto Benedetto conosce un avvocato a Roma che è un compagno, altrettanto si può occupare di queste vicende. È chiaro che poi se lo applichi a dei contesti più ampi può diventare molto più complicato per una persona X pensare di andarsi ad interfacciare con due avvocati, quindi uno che già conosci più un altro su Roma, in più per l'avvocato stesso, se non è un tuo super amico, farsi lo sbattimento di dover muovere mari e monti per andare a Roma, a Parigi in questo caso, insomma diventa un po' un'altra storia, ecco. Ça nous permet plus de faire de recours en urgence puisque comme la mesure n'est plus effective ensuite, il n'y a plus d'urgence à aller au tribunal. Vabbè, ha ridetto la stessa cosa che poi, nel senso, se non si fa d'urgenza non ha più senso fare niente, non è proprio più possibile fare niente. Sì, cioè se non c'è l'urgenza, se non c'è il ricorso urgente vuol dire che non è urgente fare questa cosa e quindi due anni e ciao. No, cioè lei dice, no, dice per quelli temporanei, cioè è finito, quindi sì, non esiste sì, più, certo. Proprio non ci sono neanche tracce, non è che dici cancello qualcosa che c'era certo. Una volta. Sì. Donc le réflexe à avoir, à mon avis, c'est d'avoir des contacts d'avocats français qui peuvent déposer en urgence, limite dans l'heure, donc en prévoyant avant un déplacement sur le territoire français pour une manif ou un truc, de déjà des contacts. Allora, il suo consiglio per difendersi da questa misura è quello di avere già dei contatti prima di andare in Francia, quindi quando ci si prepara a un viaggio in territorio francese, avere già dei contatti con degli avvocati pronti nel caso in cui si ricevesse questa interdizione, a intervenire prontamente e a presentare subito al tribunale questo ricorso. Des contacts en avance. Nous maintenant, on est un certain nombre d'avocats, on a des modèles de recours qui sont prêts et qu'on peut shooter, qu'on peut envoyer au tribunal vraiment dès qu'on est saisi, quoi. Ça nous prend même pas une heure et on peut l'envoyer. Donc. Lei dice noi abbiamo dei modelli già pronti, quindi noi siamo prontissimi. Appena ci viene comunicato, in un'ora lo inviamo immediatamente al tribunale. C'est ce qu'il faudrait, je pense, privilégier pour pouvoir faire des recours en urgence très vite, avoir des réponses dans les jours qui suivent la saisine du tribunal, parce que sinon, en fait, c'est très bien, on peut faire des recours, mais ils seront examinés deux ans après, quand en vrai, il n'y a plus trop de sens à ça, quoi. Bon, je fais un dernier vocal parce que là, je dois partir absolument, mais j'essaie de me connecter tout à l'heure. Je pense que c'est pas hyper clair parce que j'ai fait très vite dans la précipitation, mais on pourra en discuter. N'hésitez pas à lister vos questions. Si je peux vous répondre par écrit, je le ferai. Et sinon, on fixe un moment sans deux trucs à la fois. Encore désolé pour ça. Bon courage. Si scusa per non essere stata presente, ci dice che comunque se abbiamo delle domande ci risponderà per iscritto. Possiamo anche provare a sentirla adesso per vedere se le avevamo detto di scriverci. Esatto, in teoria ci doveva scrivere lei. Comunque in ogni caso, appunto, c'è questa possibilità di se adesso vogliamo continuare la discussione, che credo sia il caso, di riuscire appunto ad avere delle domande scritte. Cioè insomma mettere giù delle questioni che dopo vogliamo porre, eventualmente anche di pensare di organizzare ancora un altro momento, questo poi si può vedere, si può organizzare. In ogni caso, se abbiamo degli appunti efficaci, dopo possiamo chiedere e farci appunto inviare delle cose, magari anche stasera, vediamo. Vabbè, se ti fa meno allora torniamo un attimo in Italia. Ok. Per parlare della detenzione amministrativa, naturalmente parliamo dei CPR, perché nell'ordinamento italiano la detenzione amministrativa riguarda il controllo dell'immigrazione. E volevo soltanto, giusto perché così dopo chiacchieriamo più liberamente, notare semplicemente un passaggio. Naturalmente sappiamo tutti cosa sono i CPR, i CPT, i CIE, non c'è bisogno di non tracci in questo discorso, però per mettere in evidenza quello che abbiamo definito i legami pericolosi tra diritto amministrativo e diritto penale, vale la pena di dire che a un certo punto ci si è domandati perché si chiamasse detenzione amministrativa quella all'interno dei centri di permanenza per gli immigrati, no? Perché detenzione è un termine che riguarda, che è riferito al diritto penale, no? E a questo punto la Corte Costituzionale si era espressa nel 2001, mi sembra, sì, per dire che i trattenimenti all'interno di questi centri erano equiparati, essendo una privazione della libertà, alla detenzione in carcere. Però a questo punto, se deve essere una detenzione, occorre che rispetti i dettami dell'articolo 13 della Costituzione e in pratica capire visto che all'interno di questi centri si viene rinchiusi non perché si è commesso un reato, occorre trovare quella che viene definita, poi tu mi dirai, io l'ho trovata definita così, riserva legislativa assoluta, che in effetti questa riserva legislativa assoluta trova la conferma in un articolo della CEDU, nella quale si dice proprio che ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi seguenti. Alla lettera F, guarda caso, viene proprio specificato caso di espulsione e di estradizione. Ed ecco che questo legame pericoloso tra diritto amministrativo e diritto penale trova una sua corrispondenza, si sono sistemati, no? Hanno trovato questa riserva legislativa assoluta, che è una strana definizione, però in qualche modo per sistemare la faccenda, perché se la Consulta aveva deciso che, se la Corte Costituzionale aveva deciso che si trattava di detenzione, Mobbe doveva venire in qualche modo spiegato come si poteva detenere qualcuno senza un reato. E questo soltanto due parole per quanto riguarda la detenzione amministrativa in Italia. Il modello, naturalmente, come spesso accade, è un modello che viene seguito nel mondo occidentale ogni volta che necessita è quello dello Stato sionista. Nello Stato sionista la detenzione amministrativa è un fatto costante e continuo dall'istituzione dello Stato, anzi era già prevista anche nel mandato britannico. Si rifà una legge militare, la 1651, un articolo 285, ma non è che ci interessi, che naturalmente doveva essere uno, anche in questo caso doveva essere uno, dovrebbe essere uno Stato, una questione che non poteva essere in qualche modo consolidata nel tempo. Purtroppo è talmente che ci sono ancora più di 5.000 detenuti palestinesi, 870 sono in detenzione amministrativa. Prima è stato più volte ripetuto nei vari interventi questo aspetto della segretezza che si riferisce anche al dispositivo francese di cui avete parlato. Cioè in detenzione amministrativa ogni comandante militare può decidere di mettere un qualunque palestinese per 6 mesi senza nemmeno dichiarare né a lui né all'avvocato qual è l'accusa e nemmeno facendogli un processo. Poi di 6 mesi in 6 mesi questa detenzione amministrativa viene ulteriormente confermata fino ad arrivare a durare anche degli anni. Non ve la faccio lunga, però è importante ricordarci che il modello sionista fa effettivamente da riferimento importante per ogni cosa questione che possa riguardare la repressione. Non hanno diritto a nulla i detenuti in detenzione amministrativa, vengono spostati illegalmente nelle carceri israeliane e l'unica si può ricorrere in appello, ma l'appello naturalmente non ha mai una risposta positiva e l'unica forma che i detenuti palestinesi possono mettere in campo, aspettiamo un attimo, è guarda caso lo sciopero della fame. Ogni anno, ogni tot mesi, anche in questo momento credo, era iniziato anche in autunno scorso, ma anche adesso dovrebbe essere in corso, ci sono degli scioperi contro appunto questa detenzione amministrativa che, guardate bene, riguarda anche i bambini, perché tanto non, ovviamente la resistenza palestinese in effetti viene portata avanti da dei ragazzini e quindi questi vengono arrestati, trasferiti nelle carceri israeliane e in alcuni casi sono anche essi detenuti in detenzione amministrativa. Mi sembra importante ricordare questo perché è da più di 70 anni che i palestinesi subiscono questi trattamenti rispetto ai quali non possono proprio niente. Non la faccio lunga perché richiederebbe una serata questo riferirsi a quello che succede là. L'unica cosa che dico è che la detenzione amministrativa è riferita ai territori alla Cisgiordania, Gerusalemme, insomma i territori occupati anche dalle 67 da Israele, però esiste anche per Gaza e guarda caso lì, come è successo durante l'amministrazione Bush, è stato per qualificare il nemico e poter agire su di lui in qualunque modo, è stata ideata la categoria del combattente illegale. Quindi per quanto riguarda i palestinesi di Gaza vengono trattenuti con questa accusa. Può essere riservata anche dei cittadini dello Stato sionista, però la cosa è molto irrilevante, cioè insomma è successo poche volte. Vorrei fare un ultimo accenno, ci siamo trovati anche durante la mobilitazione per Alfredo ad affrontare la questione del TSO. Ecco, anche il TSO è un trattamento sanitario obbligatorio che sarebbe un trattamento sanitario. Da più parti però viene rilevato come un trattamento, come una disposizione amministrativa per il grande potere che hanno gli amministratori di poter reagire. Infatti lo deve firmare il sindaco. Quindi terrei presente perché noi spesso ci dimentichiamo dell'aspetto repressivo della psichiatria, che invece probabilmente è il più pesante, il più potente, è quello rispetto ai quali siamo anche più impotenti e che entra in un modo così violento e massiccio nelle persone che vengono colpite. Ricordiamoci che il TSO entra legittimamente nel discorso della repressione di tipo amministrativo. Ci tenevo a sottolinearlo. Grazie.